Quelle que soit sa nature, l'objet tombé du ciel s'est écrasé juste là derrière. J'ai entendu plusieurs explosions, comme des bangs soniques. Le seul indice que nous ayons est un son. Écoute, c'est DJ Phil. Mon Dieu. DJ Phil. House Dance Sensation. Quand je lui ai demandé de qui il avait si peur, il s'est borné à répéter un nom. DJ Phil. Votre prochaine mission a été validée. L'acceptez-vous? DJ Phil. Mix live. No stop party. Are you ready? DJ Phil. Solo tu. Senso senza te, solo tu. Stamattina, per alzarmi ancora un giorno insieme a te. Caldo la luna accesa, la radio che va. Un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. E una telefonata non aspettata, la felicità. Felicità. Felicità. È una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. Di aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. We'll be right back.

sip from the devil's cup. You broke my heart, there's no way back. Move right out of here, baby, go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? my hair, 'cause I might open my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy, just a little touch, but maybe showers remind me of psycho too much. That's why I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me, who's playing tricks on me. Mm-hmm.

DJ Feel.